Che nostalgia. Eh sì, la nostalgia di quando c'era la lira. E noi ce la ricordiamo, la lira. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. A che piano va? Secondo. Ah, bene, anch'io. La riunione di stamattina è stato un continuo di frecciatine, rimbrotti, una tensione. La vita in ufficio. E poi dopo, stressato com'ero, ho pure trovato una fila allucinante al bar. Sì, anch'io. Quindi ho finito di mangiare tardi, ho fatto una corsa incredibile per tornare in ufficio in tempo e adesso eccomi qua. Non me ne parli. Io ho ancora il fiatone. Gli specchi in ascensore non dovrebbero proprio metterli. Guarda, sono sbattutissimo. E guardi qui che pezze che ho sotto le ascelle. Sì, vabbè, anche ma, se scusi, no. ma oggi abbiamo fatto più o meno le stesse cose, immagino. Com'è che lei... Cioè, lei ha cambiato camicia? Ma no! Ecco qui il mio segreto! Ma... un Wunderwaffer? E che cosa c'entra? Ma come? Se hai 3 Wunderwaffer, uno te lo mangi e gli altri 2 ti aiutano a farti sentire a tuo agio sempre e dovunque. Ma prima mi dava del lei. Comunque, che cosa sta dicendo? Cosa c'entra il Wunderwaffer con l'ascella pezzata? È evidente che non conosce lei la funzionalità di Wunderwaffer. Funzionalità? Neanche tu la conosci. Nemmeno io. Lui, chi? Perché se lo applichi sotto le ascelle, il Wunderwaffer, con la sua cialda super assorbente, evita la formazione di aloni sgradevoli e imbarazzanti e protegge i tuoi capi. Anche quelli dell'ufficio, dall'odore delle ascelle. Sì, ma quindi è per quello che lo vendono in confezione tripla K. Adesso ho capito. Ma certo, Wunderwaffer pensa sempre a tutto. Anche le ascelle pezzate. Ma no, io non lo so se funziona sta roba qua. Sì. Non voglio dire, ma il problema è il posizionamento del Wunderwaffer in un contesto di professionisti. E invece il posizionamento sotto le ascelle, secondo me... Ma Drago, però scusami, ma non basterebbe dire alle 5 hai fame? Mangiati un Wunderwaffer, cioè più diretto come messaggio, più efficace, no? Magari. Allora, chiedo asilo, trasmissione sull'infantilismo, dobbiamo dirlo ogni tanto perché sennò qui ci prendono per pazzi. Sì. Trasmissione anche sull'infantilismo. Anche se lo dici, secondo me non cambia granché. Comunque, no, vai. Allora, vai una trasmissione che stigmatizza l'infantilismo corrente ormai in Italia, stigmatizza, diventi più autorevole. Come no, stigmatizza, mica è un verbo che usano tutti. È vero. Comunque, noi diamo le notizie bambine della settimana. Una notizia bambina è questa del bambino di 9 anni che è stato beccato negli Stati Uniti mentre vendeva bustine di marijuana a quelli delle classi più alte. Ma ai miei tempi queste cose non succedevano. Lo so, ai nostri tempi non succedevano ed è solo per quello che a volte mi viene il rimpianto di essere nato troppo presto. Se fossi nato adesso. Ma è un caso limite, dai, 9 anni è un po' prestino, dai, per cominciare a vendere le bustine. Ma infatti il bambino era completamente ignaro di quello che stava vendendo. Evidentemente i genitori si erano messi d'accordo con i ragazzini più grandi per usare il figlio come corriere. Il corriere del mattino? E lui alle 8 puntuale, la ganja nella busta, tutto a posto. Però qui all'asilo rischi del genere non ne corriamo. Qui i bambini sono così piccoli che non sono ancora interessati alla marijuana. Pensare quindi... che il bambino Vasco aveva invece immaginato un asilo che faceva uso abbondante di cannabis. Te lo ricordi? Ma ho capito, ma il bambino Vasco era un agent provocateur. Un? Agent provocateur. Era lui da giovane provocava. No, ma agent provocateur è una marca di un profumo, di intimo, non lo so. Di intimo. Ah, di un negozio inglese che vende mutande e frustini. Ho capito, però, Vasco. Capito, mutande e frustini, ma? Hai capito, non quelli che trovi nei porno. No, di quelli sexy shop, di gomma schifosi. No, quelli tutti bravo, un po'. Vedo che quelli li conosci bene. E cioè, agent provocateur non ha idea. Ma agent provocateur per me continua a rimanere Vasco Rossi da giovane, capito? Lui provocava. Ma in che senso? Semmai è provocato, perché come? Adesso sì, è provocato. Vecchio, è provocato da Ligabue, provocato da Morgan. Sì. I giovani sgomitano. Sì, i giovani. Morgan e Ligabue. Il giovane c'ha 43 anni. Però questa è l'Italia del rock, effettivamente. Il rock è un gerontocomio, mentre i cantanti giovani che dovrebbero essere molto più rock, incazzati neri, fanno tutti i romantici e cantano gabbiani, onde, amore, amore, amore. Ma che gabbiani? Sì. Ma non è vero. Ma che ne sai tu del rock dei giovani io italiani? Io ne so. Senti qua. Volevo chiederti, tu hai dichiarato che ci dobbiamo aspettare un nuovo Valerio Scherzi. toscano? In che senso, se si può dire? Ma diciamo che c'è stata una crescita sicuramente sia artistica che umana, ecco. Per cui questo album rispetto ai precedenti assume più corpo, più forma, c'è stato più tempo per prepararlo, perché da subito dopo Sanremo ho cercato anch'io in prima persona i pezzi, capito. Ho coltivato i miei autori. Capito cosa? Subito per dopo creare Sanremo. Un progetto omogeneo, ecco. I pezzi. Quindi cosa mi stai facendo? Perché? È Valerio Scanu questo. Ho capito. E dobbiamo aspettarci un nuovo Valerio Scanu, sì, lo dice in questa intervista. A parte che non ha spiegato niente di come sarà il nuovo Valerio Scanu, ha detto il disco insomma, più corpo. Basta che sia nuovo. Mica ha detto che nelle sue canzoni si occuperà del precariato e dei problemi dei ragazzi di oggi, che è quello che ci si aspetta da un cantante rock di adesso. È vero. Che poi tra l'altro, scusa, chi è Valerio Scanu? Appunto, chi è? Chi è il Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer, Wunderwaffer. Vabbè, dai, senti, è la roba delle ascelle pezzate. Se mai troviamo un riferimento francese, no? Le baguette aromatizzate così alla cipolla, no? Perché i francesi se le portano sempre sotto le ascelle, sai, allora? Le baguette. Allora, anche il Wunderwaffer, utilizzato come assorbente ascellare, che è una cosa che veramente, non so, io pensavo fosse finita negli anni 80 sta roba, invece funziona. Sì, non gesticolare troppo che poi si sente il odore delle ascelle. Comunque, è vero che il Wunderwaffer, dopo che è stato messo sotto le ascelle, può avere questo un nuovo gusto di cipolla, oppure di umami, no? Umami che è il quinto gusto, il no? Quinto gusto. Il quinto gusto, quindi, perché gli altri quattro sono? È il dolce, salato, acido, no, è amaro. Aspro? Aspro e amaro. E questo è l'umami, vedi? Che schifo, mi ha appena tolto dalle ascelle. Ma no, è glutammato, capito? Sa di glutammato e quindi è umami. Comunque è buonissimo, senti. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Guarda, non riusciremo mai ad aumentare il fatturato di Wunderwaffer se continuiamo a insistere su cose come il sapore di ascella. Che poi questa, voglio dire, hai detto prima, è l'ora del tè. Cioè, abbiamo la situazione base per le radiovendite, che è meglio di così impossibile. L'ora del tè, invece no, sudore ascellare. Ma come si fa, capo? Ho capito, ma noi non abbiamo il team di autori che ha Matteo Caccia. Quello con gli occhiali, vero? Non ce l'autore principale saresti tu qui. Sì, però le radiovendite le ho appaltate. A chi? A una stagista. Ventenne. A cosa? Ma largo ai giovani. Si dice sempre, non si fa mai, io l'ho fatto. Vabbè, ma i risultati sono questi. Vabbè, scusa, perché i giovani hanno il tarlo dell'originalità. Chissà cioè, devo come essere mai, il primo vero, a dire che mi metto i wafer sotto le ascelle. In effetti l'ora del tè è perfetta, no? Come scusa per parlare di una merendina. Vabbè, ma allora se siamo d'accordo, andiamo alla macchinetta del caffè, se vuoi. Hai la chiavetta? Dove hai messo la mia chiavetta? Esatto. Se vuoi ti carico la chiavetta. Tutto per arrivare a mangiarsi il wafer. Ascellare, cioè, voglio dire. Vabbè. Forse per la stagista giovane è un po' troppo banale la macchinetta del caffè, però, o del tè. Scusa, se vai a vedere, ha ragione. Ma chi? La stagista. Ma perché? Perché è vero che è troppo scontata l'associazione ora del tè, Wunderwaffer. Ma cosa capito? È pubblicità, non c'è niente di scontato in pubblicità. No, no? No, in pubblicità una coppiata come ora del tè e Wunderwaffer è una benedizione, non devi star lì a sforzarti. Vabbè. E fai quel tipo di pubblicità lì. E quindi allora insomma, d'ora in poi faremo solo radiovendite in cui uno dei due dice all'altro: ehi, è l'ora del tè, facciamoci un tè di marijuana. E l'altro: no, dai, preferisco un tè normale con Wunderwaffer, mi sballa di più. Una roba così. Ma anche meno elaborata, anche. Ehi, l'ora del tè, facciamoci un bel tè con la marijuana, col Wunderwaffer. Ma è meglio con la marijuana alla fine. Chiedo asilo, anche per oggi è finito. Per la gioia dei bimbi, per la gioia dei grandi, per la gioia di tutti. Cioè, la gioia è che è finito. Basta, basta con questi due, basta. Seguiteci su Facebook, Chiedosilo, com'è che si dice? Facebook /Chiedosilo. Chiedosilo / Facebook. Bambino Alberto, Facebook, è finita anche la musica qua.